Come avevo supposto, prima di incontrare Madame de Villeparisis a Balbec, c'era una grande differenza fra il suo ambiente e quello di Madame de Guermantes. Madame de Villeparisis era una di quelle donne che, nate in un'illustre casata, entrate con il matrimonio in un'altra non meno gloriosa, non godono tuttavia di una brillante posizione mondana e, eccettuate solo alcune duchesse, delle quali sono zie o cognate e magari una o due teste coronate, vecchie conoscenze di famiglia, devono accontentarsi, nel loro salotto, di un pubblico di terz'ordine, borghesia, nobiltà provinciale o inquinata, la cui presenza ha da tempo allontanato le persone eleganti e snob, non costrette a venirci per parentela o per intimità di troppo antica data. Non faticai certo né tardai a capire come mai Madame de Villeparisis fosse a Balbec così bene informata, meglio di quanto lo fossimo noi, sui minimi dettagli del viaggio che mio padre stava allora facendo in Spagna con il marchese di Norpois. Ma ciò nonostante, non era possibile scorgere nella più che ventennale relazione di Madame de Villeparisis con Norpois la causa del declassamento della marchesa in una società dove le donne più in vista ostentavano amanti assai meno rispettabili dell'ambasciatore, il quale, d'altra parte, da diverso tempo doveva essere ormai per la marchesa solo un vecchio amico. Madame de Villeparisis aveva forse avuto in passato altre avventure? Dotata allora di un carattere più appassionato di quello che contrassegnava la sua vecchiaia pacifica e pia, la quale peraltro doveva un po' del suo colore a quegli anni ardenti e remoti, non aveva saputo, nella provincia dove era a lungo vissuta, evitare certi scandali ignoti alle nuove generazioni che ne constatavano solo l'effetto nella composizione mista e difettosa di un salotto destinato altrimenti ad essere uno dei più scevri d'ogni mediocre scoria? La maldicenza che suo nipote le attribuiva le aveva creato a quel tempo delle inimicizie? L'aveva indotta ad approfittare di certi successi con gli uomini per vendicarsi di qualche donna? Era tutto possibile, e non bastava certo il modo squisito, sensibile, così delicato nello sfumare non solo le espressioni, ma anche le intonazioni con cui Madame de Villeparisis parlava del pudore, della bontà, a infirmare questa supposizione. Spesso, infatti, coloro che, oltre a parlare bene di certe virtù, ne subiscono il fascino e le intendono a meraviglia, e sapranno darne nelle loro memorie un'immagine degna, sono usciti dalla generazione muta, grezza e senz'arte che le praticava, ma loro personalmente non ne fanno parte. Non la continuano, la riflettono. Al posto del carattere che la distingueva, troviamo una sensibilità, un'intelligenza che non contribuiscono all'azione. E ci fossero o non ci fossero stati, nella vita di Madame de Villeparisis, degli scandali tali da offuscare lo smalto del suo nome, era questa intelligenza, l'intelligenza quasi di uno scrittore di second'ordine, assai più che di una donna dell'alta società, la causa indubitabile della sua decadenza mondana. Certo, le qualità che Madame de Villeparisis esaltava in sommo grado erano qualità non molto eccitanti, come la ponderatezza e la misura. Ma per parlare della misura in modo davvero adeguato, la misura non basta e occorrono doti di scrittore che presuppongono un'esaltazione assai poco misurata. Avevo notato a Balbec che Madame de Villeparisis non capiva il genio di certi grandi artisti, ma era capace soltanto di prenderli finemente in giro, atteggiando la sua incomprensione in forma spiritosa e graziata. Ma questo spirito, questa grazia, alla gradazione cui lei sapeva condurli, diventavano a loro volta, su un altro piano, e fossero pure profusi per disconoscere le opere più sublimi, autentiche qualità artistiche. Ora, qualità siffatte esercitano su qualsiasi posizione mondana un'azione morbosa elettiva, come dicono i medici, è a tal punto disgregante che le più solide resistono a stento per pochi anni. Quella che gli artisti chiamano intelligenza viene interpretata come una mera pretesa dalla società elegante, la quale, incapace di afferrare il solo punto di vista da cui gli artisti valutano ogni cosa, non cogliendo mai la particolare attrattiva cui essi cedono nel momento di scegliere un'espressione o di fare un accostamento, avverte accanto a loro una stanchezza, un'irritazione dalle quali non tarda a nascere l'antipatia. Eppure, nella conversazione, e così anche nelle sue memorie, che videro poi la luce, Madame de Villeparisis non rivelava altro che una sorta di grazia squisitamente mondana. Avendo sfiorato grandi cose senza mai approfondirle, a volte senza nemmeno rilevarle, non le era rimasto quasi nulla del periodo in cui era vissuta e che, del resto, dipingeva con incantevole precisione, all'infuori di ciò che esso aveva offerto di più frivolo. Ma un'opera letteraria, anche se si occupa esclusivamente di argomenti non intellettuali, è pur sempre opera dell'intelligenza. E per dare in un libro o in una conversazione che poco ne differisca la compiuta impressione della frivolezza, occorre una dose di serietà di cui una persona semplicemente frivola non sarebbe capace. In alcuni libri di memorie, scritti da donne considerate alla stregua di capolavori, questa o quella frase, citata come modello di grazia lieve, mi ha sempre suggerito il pensiero che per raggiungere tanta levità l'autrice dovesse aver posseduto, prima, una dottrina un po' greve, una cultura scostante, apparendo alle sue amiche, da giovane, come un insopportabile bablé. Inoltre, fra determinate qualità letterarie e l'insuccesso mondano, la connessione è talmente necessaria che se si leggono oggi le memorie di Madame de Villeparisis, un certo epiteto calzante, una certa sequenza di metafore, bastano al lettore per ricostruire il saluto ossequioso ma gelido rivolto alla vecchia marchesa sulla scala di un'ambasciata da una snob come Madame Leroy, che le lasciava magari un biglietto da visita con l'angolo ripiegato mentre si recava dai Guermantes, ma si guardava bene dal mettere piede nel suo salotto per paura di declassarsi fra tutte quelle mogli di medici o di notai. Una bableu, forse, Madame de Villeparisis lo era stata davvero nella sua prima giovinezza, quando, ebra del suo sapere, forse non era riuscita a trattenersi dal lanciare, contro persone del bel mondo meno intelligenti e meno istruite di lei, qualche estrale acuminato di quelli che il ferito non dimentica. E poi il talento non è un'appendice posticcia da aggiungere artificialmente alle varie qualità che determinano il successo sociale al fine di costruire, nell'insieme, ciò che le persone di mondo chiamano una donna completa. Esso è il prodotto vivente di un determinato temperamento morale, nel quale di solito molte qualità scarseggiano e predomina una sensibilità di cui possono manifestarsi alquanto vivacemente, nel corso dell'esistenza, aspetti diversi da quelli che siamo abituati a cogliere in un libro, ad esempio certe curiosità, certe fantasie, il desiderio di andare qua o là per proprio diletto e non in vista dell'incremento, del mantenimento o della semplice funzionalità delle relazioni mondane. A Balbec avevo constatato come Madame de Villeparisis, circondata dai suoi domestici, non posasse mai lo sguardo sulle persone sedute nella hall dell'albergo. Avevo però intuito che quell'astensione non era indifferenza, e in effetti pare che non sempre la marchesa vi si fosse arroccata. Ogni tanto Le saltava in mente di conoscere qualcuno che non aveva titoli per essere ricevuto in casa sua, magari perché l'aveva trovato bello, oppure semplicemente perché le avevano detto che era divertente o le era sembrato diverso dalle persone che frequentava, le quali allora, ai tempi in cui non le apprezzava ancora, perché credeva che non l'avrebbero mai lasciata, appartenevano tutte al più puro Faubourg Saint-Germain. Quell'artistoide, quel piccolo borghese sui quali aveva messo gli occhi, si impegnava ad imitarli con un'insistenza di cui essi non potevano apprezzare il valore e che, a poco, deprezzava lei agli occhi degli snob, abituati a valutare un salotto in base alle persone escluse piuttosto che a quelle accolte dalla padrona di casa. Se, in una certa fase della sua giovinezza, Madame de Villeparisis, troppo appagata dalla soddisfazione di appartenere alla crema dell'aristocrazia, si era in qualche modo divertita a scandalizzare le persone del suo ambiente, a mettere deliberatamente in gioco la propria posizione, aveva certo cominciato a darle peso a partire dall'istante in cui l'aveva perduta. Aveva voluto dimostrare alle duchesse che era meglio di loro, dicendo, facendo tutto ciò che loro non osavano fare e non osavano dire. Ma adesso che, tranne le parenti prossime, costoro disertavano la sua casa, lei si sentiva sminuita e avrebbe voluto regnare ancora, ma con mezzi diversi dall'intelligenza. Il suo proposito era di attrarre tutte quelle che prima aveva escluse con tanta cura. Quante vite di donne, vite peraltro semisconosciute, giacché ciascuno, a seconda della sua età, ne ha conosciuto un momento diverso e la discrezione dei vecchi impedisce ai giovani di farsi un'idea del passato e di abbracciare con un solo sguardo l'intero ciclo, quante vite di donne si suddividono così in periodi contrastanti, l'ultimo dei quali completamente dedicato a riconquistare ciò che nel secondo era stato allegramente dissipato. Dissipato in che modo? I giovani fanno fatica a immaginarselo, perché hanno sotto gli occhi una vecchia e rispettabile marchesa di Villeparisis e non sospettano neanche lontanamente che l'austera memorialista di oggi, così dignitosa sotto la sua bianca parrucca, possa essere stata un tempo una gaia nottambula che fece forse la delizia e dilapidò forse il patrimonio di uomini scesi ormai nella tomba. Che Madame de Villeparisis si sia allora applicata a distruggere, con alacrità spontanea e perseverante, la posizione che le derivava dalla sua grande nascita, non significava tuttavia che, anche in quel remoto periodo, le attribuisse poca importanza. Allo stesso modo, l'isolamento, l'inazione in cui vive un nevropatico, non gli risultano certo sopportabili per il fatto che ne è lui stesso, dalla mattina alla sera, l'unico artefice, e può darsi che, nel medesimo istante in cui s'affanna ad aggiungere un nuovo anello alla catena che lo tiene prigioniero, egli non sogni altro che balli, viaggi e partite di caccia. Lavoriamo di continuo a dare una forma alla nostra vita, ma nel farlo copiamo senza volerlo, come si copia un disegno, i tratti della persona che siamo e non di quella che ci piacerebbe essere. I saluti sdegnosi di Madame Leroy potevano esprimere in qualche modo la vera natura di Madame de Villeparisis, ma non rispondevano affatto ai suoi desideri. Certo, nello stesso momento in cui Madame Leroy, secondo un'espressione cara a Madame Swann, tagliava fuori la marchesa, questa poteva cercare di consolarsi ricordando che, un giorno, la regina Maria Amelia le aveva detto «Vi voglio bene come a una figlia». Ma siffatte cortesie regali, segrete e ignorate, esistevano solo per la marchesa, coperte di polvere come il diploma di un remoto primo premio al conservatorio. Le sole autentiche prerogative mondane sono quelle che creano vita, che possono scomparire senza che il beneficiario debba cercare di trattenerle o divulgarle, perché, nello stesso giorno, 100 altre ne prendono il posto. Pur attaccandosi, nel ricordo, alle parole della regina, Madame de Villeparisis le avrebbe volentieri barattate con il potere permanente, posseduto da Madame Leroy, di essere invitato ovunque, così come al ristorante un grande artista sconosciuto, il cui genio non risulta né dai tratti timidi del suo volto, né dalla foggia desueta della sua giacchetta lisa, darebbe chissà cosa per essere semplicemente il giovane agente di cambio il quale, pur occupando in società una posizione di infimo rango, sta mangiando, non lontano da lui, in compagnia di due attrici e al cui tavolo, in una corsa ossequiosa e ininterrotta, s'avvicendano premurosi il proprietario del locale, il maître, i camerieri, i fattorini e persino gli sguatteri che, per salutarlo, sbucano in processione dalla cucina come in un balletto, mentre il sommelier s'avvicina a sua volta, non meno polveroso delle sue bottiglie, zoppicante e abbacinato, come se, salendo dalla cantina, si fosse storto un piede prima di rivedere la luce del giorno. Bisogna dire, peraltro, che l'assenza di Madame Leroy dal salotto di Madame de Villeparisis, se gettava nella costernazione la padrona di casa, passava inosservata agli occhi della maggior parte degli invitati. Ignorando totalmente la posizione mondana di Madame Leroy, che era nota soltanto alla migliore società, essi non dubitavano che i ricevimenti di Madame de Villeparisis fossero, proprio come appaiono oggi ai lettori delle sue memorie, i più brillanti di Parigi.